La brutta di meno e guadagnerete di più. Sarà una manovra lacrime e sangue. La manovra richiederà sacrifici da tutti. Rimettere a posto i conti pubblici come esige Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Tu chiamala se vuoi la pizza di Stato. Tu chiamala come vuoi pizza di Stato. Paga senza fiatare, torna a dormire tanto anche da sveglio. Non hai sentimento, lavora, fatica per fare un altro debito che ti farà dormire da sveglio. Sta sveglio senza tu dormire. Prima ti hanno assuefatto con la pubblicità. Prendi due, paghi tre, il fesso sei sempre te. Guarda la televisione, ascolta le notizie del telegiornale. Mangia, ingrassa, dormi e vai a lavorare per mangiare e ingrassare. Loro devi solo desiderare le cose inutili che ti fanno sembrare ricco e restare povero. Povero ma ricco, sempre più povero. Fuma, fuma che dobbiamo sanare il bilancio della sanità e guarire tutti gli avvelenati dal cancro della società. Mangia, bevi e consuma la tua vita aspettando di fare il botto con il gratta e vinci. Gioca d'azzardo, giocati la vita e poi torna a dormire che tanto da sveglio non hai sentimento. Fuma, fuma, fuma, paga e non fiatare. È solo fumo negli occhi che ti illude di essere quello che vorresti diventare, ma che non potrai mai essere. E allora paga, è solo fumo negli occhi. E paese dal paese sono scappati tutti per andare in città dove vivere costa parecchio e ci vuole orecchio. Buon intenditore, non servono parole. Tu chiamala se vuoi la pizza di Stato. Ami essere vittima della pubblicità. Prendi tutto gratis, qualcuno pagherà. Pagheranno i tuoi figli, i nipoti di quelli che arrivano per pagarti la pensione. Mangia, ingrassa, dormi e vai a lavorare per mangiare e ingrassare. Loro devi solo desiderare le cose inutili che ti fanno sembrare ricco, ma sempre più povero. Povero ma ricco, sempre più povero, povero. Fuma, fuma, fuma che dobbiamo sanare il bilancio della sanità e guarire tutti gli avvelenati dal cancro di questa società. Bevi e consuma la tua vita aspettando di fare il botto con i gratta e vinci. Gioca d'azzardo, giocati la vita e poi torna a dormire che tanto da sveglio non hai sentimento. Fuma, fuma, fuma, paga e non fiatare. È solo fumo negli occhi che ti illude di essere quello che vorresti diventare, ma che non potrai mai essere. E allora paga, è solo fumo negli occhi.